Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccomi. Sto preparando. Intanto voi accomodatevi a mangia con me, ma prima di... cerco di non rompere niente, cerco di fare le cose per bene, ma e soprattutto prima di farvi conoscere l'ospite di oggi, vi do un consiglio. Compilate sul nostro sito il questionario, perché, cari amici, le selezioni sono ancora in corso e stiamo cercando i prossimi protagonisti. Fatevi avanti, quindi rompete ogni indugio, ma adesso, mi raccomando, state fermi lì, seguite con attenzione la puntata, rizzate bene le orecchie, perché quando, state attenti, quando sentirete questo suono, chiedo a Filippa Oreggi di rimandarcelo. Ecco, quando sentirete questo suono, mandate subito un SMS, dico un SMS, al 349-238-6666, con il vostro indirizzo di posta elettronica, lo stesso che avete usato per compilare il questionario. Per due di voi, per i primi due di voi che manderanno un SMS con la loro mail, due Smartbox arriveranno a casa, sono già lì pronte che vi aspettano. Ma naturalmente utilizzate come sempre anche il nostro numero verde per parlare con noi, 800 24 00 24, perché sennò il centralino mi ammazza. Mi raccomando, SMS per gli Smartbox quando sentite il suono. Ve lo faremo sentire in un momento della puntata. 800 24 00 24 per fare le domande, intervenire, sostenere i nostri ospiti, rispondere al quizzone. Andiamo. Gian Antonio, 35 anni, fidanzato, vive a Padova e fa il tecnico di laboratorio. Dicono di lui che è simpatico, cordiale, equilibrato. In casa è il re dei fornelli. Sono vegetariano da 15 anni, quindi ho imparato a cucinare cose particolari, mi piacciono molto anche piatti un po' esotici, cereali vari, burgul, farro, eccetera. Il piatto che mi viene meglio potrebbe essere il pasticcio di verdure, ad esempio, oppure il risotto col radicchio. Per la mia fidanzata cucino spesso il risotto col radicchio e lo accompagno sovente con delle torte salate. Amico di Morfeo, dorme tra le 6 e le 8 ore, affronta i cambiamenti con entusiasmo, ma vacilla solo di fronte a pizza, focaccia e pane, ai quali non rinuncia mai. Sì, sicuramente con Morfeo ho stretto una sincera amicizia, al mattino è sempre difficile alzarmi dal letto e i miei gusti preferiti ovviamente sono la pizza alle verdure. Cresce con la passione dello sport. Fa suo il detto di De Coubertin, l'importante è partecipare. E a livello amatoriale non si fa mancare proprio nulla. Quando ero piccolo ho fatto molti sport, dal karate, ping pong, al ciclismo, corsa, tennis e anche il nuoto, perché mi hanno costretto a imparare, avevo molta paura dell'acqua. Poi quando sono andato all'università ho un po' smesso e dopo ho ripreso con un po' di difficoltà. Negli ultimi anni ho ricominciato a fare sport, principalmente ciclismo e corsa durante l'estate e nuoto durante l'inverno. Il mio sogno sarebbe di riuscire a correre almeno una mezza maratona nel giro dei prossimi 2-3 anni. Ci vuole un fisico bestiale. Se il fisico c'è, mancano però i risultati. Ho la fortuna di condividere la passione per il ciclismo con un mio caro amico, però l'anno scorso a fine stagione mi sono accorto che a parità di chilometri percorsi, nonostante lui non abbia propriamente un fisico asciutto, riusciva in salita ad andare più forte di me e questo è inspiegabile. Ed eccolo qui con noi Gian Antonio, potete vederlo anche andando sul nostro sito. Ciao! Ciao Nicoletta, buongiorno. Gian Antonio, possiamo chiamarti Gian? Assolutamente sì, mi chiamano quasi tutti così. Ecco, cordiale, simpatico, sportivo, abile in cucina, sembri quasi un uomo perfetto, ma dico quasi perché chi ti conosce bene sa anche che, svelaci tu senza scoprirti troppo per carità, l'altro lato della medaglia. Sì, beh, voi siete stati un po' troppo gentili, ecco, ho un sacco di difetti, per esempio mi dicono che sono un po' lunatico, permaloso, sono molto testardo, mignolo ad esempio, insomma. Va bene, lunatico, permaloso, testardo, pignolo. Sembrano dei dettagli che hanno poco a che fare con il nostro stile alimentare, ma invece, come la nutrigenomica insegna, il carattere, le passioni, le nostre emozioni, il nostro modo di affrontare la vita influenzano i nostri geni. E in linea con noi abbiamo il nostro dottor Ongaro, che tutte le settimane ci insegna a fare le scelte giuste per fare esprimere i nostri geni al meglio. Quindi, come si dice nella nutrigenomica, far fiorire sul nostro terreno biologico la salute e il benessere. Dottor Ongaro, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Come annunciavi tu, Nicoletta, mi pare che sempre di più andiamo nel dettaglio di quello che succede all'interno della nostra cellula, anche se lo cerchiamo di rendere semplice. È evidente che anche gli stati d'animo, le emozioni influenzano quello che viene detto l'espressione genica di una persona. Sì. Nel caso di Gian Antonio, lui ha questa caratteristica di giovane, sportivo, insomma anche di un'alimentazione che secondo i canoni classici verrebbe definita certamente sana, però io credo che scopriremo nel corso della puntata di oggi che ci sono alcune cose che vanno corrette e che sono un po' più profonde, che sono un po' più nascoste e che secondo me incidono direttamente su come poi si sente Gian Antonio. Certo, attenzione perché Gian ci ha confessato di essere anche un po' permaloso. Allora Gian, però partiamo da come ti senti. Questo darà proprio modo ai nostri esperti di costruire per te un nuovo stile alimentare. Soprattutto sarà utile, immagino, a chi, riconoscendoti nel tuo profilo, vuole provare a stare meglio. Quindi provate a rispondere anche voi da casa. Se siete in sintonia con il nostro amico Gian, seguitelo e sostenetelo. 800 24 00 24. Gian, sei pronto? Prontissimo. Allora, raccontaci come ti senti. Ma io in questo momento mi sento, diciamo, pronto per partire. C'è l'estate davanti, ho un sacco di progetti. Come avete detto voi nella scheda prima, mi piacerebbe arrivare a correre una mezza maratona, se non quest'anno, magari l'anno prossimo. E quindi sono pieno di aspettative e come sempre faccio mille progetti. Quindi sono una persona abbastanza attiva anche mentalmente, insomma curioso. Senti, e come vuoi sentirti quindi? In forma per affrontare una mezza maratona, ma anche per battere un po' il tuo amico che è un po' più ciccio, ma ce la fa. Quello devo batterlo, assolutamente sì. No, a fine stagione vorrei sentirmi appagato, insomma soddisfatto del mio allenamento, che sia stata una cosa costruttiva. Ecco. Quindi questo abbiamo capito anche che cosa ti spinge a cambiare, c'è qualcosa che ti frena? Beh, un po' la pigrizia, ovviamente è sempre difficile cambiare, no? C'è sempre una certa inerzia, delle abitudini consolidate, eccetera, e la mancanza di tempo. E la mancanza di tempo. Dottor Ongaro. Beh, secondo me la parola chiave per Gian Antonio è prestazione, cioè lui è un giovane sano che fa una vita, uno stile di vita corretto, è uno sportivo, però ha voglia di perfezionare un po' la sua capacità fisica e ottenere quello stato di massima efficienza che permette di svolgere un lavoro o un'attività sportiva in modo ottimale, cioè senza quella grande fatica, no, per restare sul tema della bicicletta, con le gambe che girano molto facilmente, anche in salita, senza eccessi di stanchezza, eccetera. Però la prestazione è una parola chiave, Nicoletta, per tante persone, perché la prestazione è anche la prestazione mentale per tutti quelli che lavorano e che hanno un lavoro in cui devono utilizzare la testa, e la prestazione è anche legata al carburante che utilizziamo, così come nelle macchine da corsa si sta attenti a che benzina si utilizza, si utilizzano delle benzine speciali, così per avere una prestazione speciale ed essere anche sicuri di recuperare dal carico dell'attività fisica, ricordiamo sempre l'attività fisica fa molto bene ma stanca l'organismo, quindi se noi la facciamo senza curarci di che cosa mettiamo all'interno dell'organismo dopo l'attività fisica o prima, ecco che possiamo risentirne e non avere la prestazione che ci aspettiamo di avere. Quindi se anche voi da casa vi riconoscete nel profilo del nostro amico Gian, se la vostra parola chiave, il vostro problema è prestazione, 800 24 00 24. E a proposito di carburante, sentiamo cosa mangia il nostro Gian. Gianantonio dribbla l'appuntamento con la colazione e di gran carriera va diretto in ufficio. Intorno alle 10 però si deve difendere da un attacco di fame e lo fa con un frutto oppure con un vasetto di yogurt sempre alla frutta. A pranzo scende in campo il piatto di pasta condita con pomodoro e basilico. Nel pomeriggio gioca in difesa e lascia in panchina la merenda. Alla sera lo schema di gioco è semplice. Se Gianantonio va a tempo di sport, si mangia un frutto. Altrimenti, dato che il tempo lo consente, si concede una cena da campione con la sua dolce metà o dei suoi amici. Gian, mi sembra che tu mangi pochetto, però. Beh, non è che mangio poco, più che altro lo concentro in sole due occasioni, perché come ho detto la mattina faccio un po' fatica a alzarmi, quindi preferisco barattare la colazione con una mezz'oretta di più a letto e poi vado diretto al pranzo e dopo scatto la cena. La cena è sempre abbastanza sostanziosa. Ma, dottor Ongaro, molti di noi mangiano in questo modo, saltano la colazione, un pranzo più o meno leggero, e poi alla sera, quando la fame si fa sentire, gambe sotto il tavolo, soprattutto se ci sono degli amici, si eccede volentieri. Sì, sicuramente è una, diciamo, una distribuzione degli alimenti abbastanza frequente nella vita di oggi, però è anche vero che ha sia un impatto non positivo in tutti quelli che non fanno sport, ma tanto più in chi ha l'ambizione di correre una mezza maratona, questo tipo di alimentazione non è assolutamente adatta. Quindi nonostante Gianantonio sia vegetariano e quindi la classica carenza di verdure non è un problema suo, come lo è invece per altre persone, mi pare che sia un'alimentazione un po' sbilanciata. Sicuramente questo fatto di mangiare soprattutto la sera fa sì che in molti allenamenti ci si possa trovare completamente scarichi, e mi pare anche che dia una certa prevalenza ai cereali, e non mi sembra di aver sentito che questi siano sempre integrali, e temo anche, cosa che alle volte può succedere in un'alimentazione in cui le proteine animali non sono elevate, che forse ci sia una certa carenza. Ricordiamo che per recuperare dall'attività fisica e riformare quelle fibre muscolari che vanno distrutte dal carico di lavoro, ovviamente le proteine sono importanti. Quindi credo che aggiustando un po' di cose sicuramente potremo dare una mano a Gianantonio a ottenere quei risultati che non ha ancora avuto. E intanto invito i nostri ascoltatori che, come Gian, come me, spesso tendono a mangiare molto di più la sera, la cena rispetto al pranzo, di chiamarci, perché il dottor Ongaro e soprattutto anche la nostra dottoressa Reverso, che è in linea con noi. Buongiorno, dottoressa Reverso. Buongiorno. Grazie per essere con noi. La dottoressa Reverso sta veramente viziandoci con delle ricette che voi potete trovare sulla pagina di Mangia con me e che vediamo insieme a Laura Vanossi, che sono molto apprezzate. Vi dicevo, i nostri esperti sono a vostra disposizione per darvi dei consigli per equilibrare un po' la vostra giornata alimentare, partendo proprio dalla giornata alimentare del nostro amico Gian, per il quale la dottoressa Reverso ha studiato il suo caso e è pronta a suggerirci che cosa ha pensato per lui. Allora, intanto capisco che questo problema della colazione è un problema piuttosto comune, però dal momento che il nostro Gian fa attività fisica è assolutamente necessario distribuire le calorie nella giornata, quindi questa colazione bisogna in qualche modo farla. Io ricordo sempre che i menù proposti sono menù di 3 giorni, ne rimangono 4 per la settimana, quindi distribuiteli e utilizzateli anche per equilibrare la vostra dieta giornaliera, insomma la vostra alimentazione in toto, diciamo così. Allora, per Gian ho pensato di proporgli un toast integrale con del salume vegetale. Il salume vegetale è un alimento molto utilizzato dai vegetariani, ha un sapore un può essere affumicato, può avere un sapore un pochino più delicato, è comunque un gusto da provare anche se non si è vegetariani. È fatto di solito con del glutine di frumento che si chiama seitan, poi lo rivedremo, anche sul sito troverete delle informazioni. È ricco di proteine perché derivando da un cereale viene eliminato l'amido quindi gli zuccheri, i carboidrati, e si concentrano le proteine, come naturalmente come tutti i cereali anche il seitan va integrato con dei legumi. Certo. Noi abbiamo proposto una ricetta dove abbiamo uno spezzatino dei bocconcini di seitan con del formaggio, visto che Gian ama i formaggi e che comunque dobbiamo piano piano condurlo ad un'alimentazione più corretta per il suo stile di vita, quindi a Gian secondo me bisogna assolutamente proporre anche del pesce, visto che è un vegetariano permissivo, diciamo così. Gian, che cosa che effetto ti fa sentire quello che ti propone la dottoressa Reverso? Sei abbastanza in sintonia oppure trattete e dici oddio, qua che cosa mi tocca fare? L'affettato di seta l'ho usato, l'ho mangiato, mi piace molto anche lo spezzatino. E per quanto riguarda il pesce proverò a fare uno strappo alla regola, va bene. Perché tu sei un vegetariano non al 100%, vero? No, diciamo che mi concedo qualche sgarro durante l'anno, tipo quando sono in ferie e diventa difficile, insomma, quando ci si trova fuori casa, eccetera. Quindi fai degli strappi. Dottor Ongaro, in che modo il tipo di dieta suggerita da Paola Reverso potrebbe aiutare il nostro amico Gian a riequilibrare, a fare la benzina giusta e soprattutto ad avere una prestazione migliore? Ma allora, il modo principale e fondamentale è la ridistribuzione dei passi degli alimenti nel corso della giornata, cioè è bene sempre ricordare che la cena, anche se ha un ruolo ovviamente sociale molto importante, perché spesso è l'unico pasto in cui riusciamo a mangiare con i familiari, ovviamente la cena ti dà dei nutrienti che in quel momento non necessariamente ti servono, delle calorie che si depositano perché viene avanti la notte dove i consumi sono pressoché azzerati. Quindi questa ridistribuzione delle calorie è centrale. È vero, dottor Ongaro, prima di dare la parola a Leonardo da Bologna, poi via le vostre telefonate 800 24 00 24 se volete intervenire per sostenere Gian, se volete avere dei consigli dai nostri esperti, fare le vostre domande. Ma è vero, tra noi donne si dice molto che se si mangia quello che si mangia la sera finisce tutto in ciccia? Beh, fondamentalmente è un po' così, insomma, la sera dovrebbe essere il momento in cui riduciamo l'introito calorico e ci prepariamo per il sonno. Dottoressa Reverso, ma se io alla sera ho molta fame? Bisogna arrivare alla sera a non avere molta fame. Questo e forse è il trucchetto. E quindi magari spezzettare al pomeriggio, anche magari alle ore 18, con uno spezzafame sano, intelligente, diciamo così, che potrebbe essere anche, oltre un frutto, avere anche delle carote, dei pezzettini di sedano, dei pezzi di finocchio, da sgranocchiare. Questo lo sa che non è che sono queste verdure che voi suggerite, sembra, non, lei lo sa bene, non hanno grande appeal, bisogna metterci un po' di provarle. Ma lei ad esempio suggerisce nei programmi di Gian la banana a metà pomeriggio, anche qua in redazione c'è il momento banana, ma lei dice ha un grado di maturazione particolare, perché? Perché ci sono degli studi scientifici sull'indice glicemico, quindi sulla capacità che ha un alimento di innalzare la glicemia, no? E la banana, se troppo matura, ha un indice glicemico alto. Cosa vuol dire? Che innalza rapidamente, troppo velocemente, la glicemia. Se invece è di media maturazione, non dico acerba, no, perché poi è pesante da digerire, è fastidiosa, una media maturazione, l'indice glicemico diventa un pochettino più basso. E quindi questo cosa vuol dire? Avere un'energia costante di lunga durata. La banana non è un frutto nostro tradizionale. Però se ci piace, vogliamo mangiarla, meglio mangiarla a metà maturazione. A metà maturazione, ma soprattutto, a parte il fatto che noi nei nostri menu cerchiamo sempre di seguire i gusti del radioascoltatore, ma che poi le banane piacciono comunque moltissimo, gli sportivi ne fanno un grande uso proprio perché è un frutto saziante, ha questi zuccheri che appunto se consumata a media maturazione, questi zuccheri che danno un carburante lento e costante, ma soprattutto la banana contiene potassio, quando facciamo attività fisica, i muscoli, incluso il muscolo cardiaco, necessita di potassio. Quindi, Gian, la tua merendina sarà una bella bananina. Una banana di media maturazione. Leonardo da Bologna, la saluto prima di dare la linea ai mercati. Leonardo? Buona giornata. Mi accompagna? Mercati, certo. E meteo e poi benissimo. Oggi ho finalmente un cavaliere anch'io. 800 24 00 24. Ci ritroviamo subito dopo con le vostre telefonate. Attenzione. È possibile, anzi è sicuro, che da dopo il meteo alla chiusura della trasmissione noi facciamo sentire un suono. Solo dopo aver ascoltato questo suono dovete mandarmi un messaggio al 349-238-6666. Solo dopo. Essere e benessere. Eccoci che siamo tornati insieme finalmente. Oggi a Mangia con me c'è Giantonio, flexitariano. Giantonio, così vengono definite le persone un po' come te, quasi vegetariane, le persone che per ragioni etiche, salutistiche, ambientalistiche stanno un po' abbandonando le loro abitudini alimentari onnivore verso un regime semi vegetariano. Tu infatti qualche strappo lo fai e pensa che ho ripensato un commento di un opinionista del New York Times che dice che questo modo di diventare quasi vegetariano è una delle 5 maggiori tendenze dei consumatori negli Stati Uniti del 2012. Quindi sei molto alla moda, molto motivato, molto accudito dai nostri esperti che stanno e si sono messi a lavorare con te, ti accompagnano per 8 settimane e in linea con noi abbiamo Leonardo da Bologna. Buongiorno Leonardo, benvenuto, grazie per avermi accompagnato. Di nuovo buongiorno Nicoletta. Io volevo invece fare un rewind, nel senso che essendo figlio della civiltà contadina, dico che il nostro ospite semi-vegetariano è in linea perfetta con l'alimentazione che c'era nei campi fino agli anni 30. Dove non si faceva, che cosa? Dove si andava a lavorare alle 4 al mattino e si faceva la prima colazione. Sì. A base certamente di pane, che era l'80%, con qualche visione di fettina di prosciutto. Sì, la facevano vedere da lontano. Poi si lavorava fino alle 14. Quindi Leonardo dice, e lo passiamo anche al dottor Ongaro per un brevissimo commento, lo schema alimentare del nostro Gian è assolutamente sano e riprende quello della civiltà contadina. Dottor Ongaro. Ma io credo di sì, credo che ci siano dei termini nuovi come appunto il flexitariano, che però di fatto insomma sono delle rivisitazioni. Quello che conta è non eccedere nei dogmatismi né da un lato né dall'altro e adottare un'alimentazione sana che sicuramente prevede una quota parte importante di alimenti di origine vegetale, e sull'esclusione o meno degli animali, questa è una questione etica, ma non etichetta necessariamente la salute o meno di un'alimentazione. Ecco, quindi, insomma, e quindi noi stiamo accompagnando il nostro amico Gian e le persone che si ritrovano con lui, e per il nostro amico Gian, a cui la dottoressa Reverso ha proprio elaborato e studiato direi proprio un menù da campione, e noi però di campione ne abbiamo una vera in linea, campionessa olimpica di sci di fondo, membro onorario del Comitato Olimpico Internazionale, prima donna italiana in cima all'Everest. In linea con noi abbiamo Manuela Di Centa. Manuela, ciao a tutti, eccomi qua. Ciao, grazie. Tra l'altro, ciao. Manuela, tra l'altro, sì. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori e voglio segnalare il tuo libro Libera di Vincere, PM Editore, perché tu racconti la tua storia sportiva, cominciata come tante storie, come un sogno, e poi portata avanti, e qua lo sottolineo, con un duro lavoro, con determinazione e con coraggio, che sono ingredienti che servono nello sport e nella vita, sempre, e ci aiutano ad affrontare ogni cambiamento. Assolutamente sì, e sono anche indicatori di uno stile di vita, io dico più stile di vita che etica, perché io con l'esperienza che ho avuto del grande lavoro, di ore di lavoro col mio corpo, ho percepito quanto importante fosse mettere una benzina giusta e quindi utilizzare al massimo elementi, innanzitutto semplici, naturali e con grande energia all'interno di loro stessi. E con semplicità, ovviamente, avendo anche letto e appreso varie cose, però poi deciso, sentendo sul proprio corpo, che per fare tanti chilometri pasta, olio, acqua, frutta buona e elementi essenziali, soprattutto la frutta secca, e non escludendo niente, però chiaramente facendo largo uso di prodotti semplicissimi che producevano, io dico, calore per la mia macchina, certo, in modo semplice. Per me mangiare così, quindi mi portavo in Scandinavia i piatti, i sacchetti di pasta, sì, l'olio, il grana, elementi essenziali, molto anche calorici come il grana, ma poco grasso, sì, ma elementi, diciamo, base, naturali, semplici, di modo che il corpo facesse poca fatica anche a smaltirli e quindi a lavorare per ottenere il massimo da me stessa, che era quello, e devo dire, finale. E devo dire che ci hai preso, come si dice. Senti, Manuela, intanto prima di ringraziarti di essere stata con noi, perché tu sei in un certo senso abbinato al nostro amico Gian. Gian, te l'aspettavi? Io avevo detto a Gian, ci sarà una sorpresa. Ti aspettavi questa sorpresa? Beh, grazie, mi fa molto piacere. Guardi, l'ho sempre ammirato Manuela di Centa, la seguivo, ho fatto sci di fondo quando ero piccolo, quindi... Vedi, insomma, siete grazie. Quasi, siete, vedi, tante cose vi legano, lo sci di fondo, siete tutte e due vegetariani. Giantonio, vedrai che il tuo amico lo batti, anche grazie alla cartolina che ti regala Manuela di Centa. Manuela. Beh, è un equilibrio di quello che è il gusto, sia esterno che interno, quindi un desiderio di un cibo, ma anche la conoscenza di quel cibo, l'equilibrio di questi due, mai dimenticare il desiderio, per quando ti viene voglia di un'acciuga c'è un motivo dentro di noi, ovviamente tutta l'intelligenza, quindi la cartolina, ermeticamente l'equilibrio tra quello che vedi e quello che desideri. Grazie Manuela di Centa, un abbraccio, grazie a per voi, essere stata con noi. Ciao a tutti. Gian, insomma, sei bello carico e adesso noi andiamo a sentire, a proposito di prestazione e di allenamento, abbiamo il nostro quizzettone 800 24 00 24, è facile e la prima risposta esatta riceverà a casa un CD degli Alti e Bassi. Abbiamo già Andrea con noi. Andrea, fatti sentire. Ciao Nicoletta. Eccolo, che sono in linea con noi e che ci accompagnano nel corso del nostro reality. Andiamo a sentire il nostro quiz. Cosa mangiare prima dell'allenamento? 1. Un piatto di pasta o dei dolci per ripristinare le scorte di zuccheri. 2. Cereali integrali a scelta e una porzione di proteine di origine animale o vegetale. 3. Meglio essere digiuni per non appesantirsi. Gian, tu sapresti già la risposta? Che cosa risponderesti tu? Che cosa fai soprattutto? Credo che dipenda molto dal tipo di allenamento. Io penso al piatto di pasta e i dolci. Un piatto di pasta e i dolci. Questa è la risposta di Gian, che non partecipa però al nostro quizzettone, a cui potete partecipare voi da casa. Andrea, degli Alti e Bassi. Oggi per la prima volta non sei qua in studio con me, ma avete sempre lavorato per definire il profilo del nostro Gian. Che cosa avete pensato per lui? Qual è il brano che più lo rappresenta? Allora, dedichiamo a Gian un gospel tratto dal nostro primo CD che si intitola I'm Rolling Through This Unfriendly World. La traduzione è sto rotolando in questo mondo poco amichevole, perché Gian, saltando la colazione e inforcando la sua bicicletta, effettivamente rischia di rotolare in un mondo poco amichevole. Però, come chiaramente siete si tratta raffinati di un brano gospel nel quale la dimensione spirituale e quella della fede sono prioritarie, ma generalizzando possiamo affermare che se adesso, partecipando a Mangia con me, Gian desidera cambiare, deve avere fiducia in se stesso e pedalare convinto verso il proprio obiettivo. Nella canzone si chiede aiuto ai genitori, nel nostro caso chiediamo aiuto ai nostri esperti, quindi tocca a Gian seguire i loro preziosi consigli per rotolare in un mondo più amichevole. I'm rolling through this unfriendly world. Can't you hear me singing? Oh, mother, won't you help me? Oh, mother, won't you help me to pray? Oh, mother, won't you help me? Won't you help me in the service of the Lord? Everybody. Gian, mi raccomando, questa sarà la tua colonna sonora, quindi quando pedali, quando sfidi l'amico. Quando prepari una cenetta alla tua fidanzata, perché tu sei anche bravo ai fornelli, mi raccomando, questa ti accompagnerà in queste 8 settimane di cambiamento. E intanto noi, tanto per cambiare, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi abbiamo Roberto da Padova e altri ascoltatori che sono in linea con noi, ma soprattutto sentiremo anche i nostri amici, gli altri ospiti d'onore di Mangia con me. Essere e benessere. Eccoci, siamo tornati insieme. Direi che David, il nostro amico Giantonio, ha i consigli dei nostri esperti, il profilo, la cartolina di Manuela di Centa, ha la colonna sonora. Dottoressa Reverso, dottor Ongaro, facciamo rapidamente, prima di parlare con Davide e Silvia, i nostri partecipanti delle puntate precedenti, due flash, due raccomandazioni al nostro amico Gian. Dottor Ongaro. Ma io direi che non avrà grandi problemi, nel senso che con l'abitudine allo sport e già una certa consapevolezza nei confronti dell'alimentazione troverà facilmente la soluzione anche attraverso i nostri consigli, e vedrà migliorare non solo la sua prestazione sportiva ma anche il suo senso di benessere nella quotidianità. Cosa gli raccomanda in modo particolare? Io gli raccomando in modo particolare di seguire proprio l'impostazione della distribuzione nel corso della giornata, che secondo me sarà la cosa più importante. Gli raccomando anche, visto che utilizza abbastanza cereali, di scegliere le versioni corrette, e ne parleremo anche in risposta al quiz, e gli raccomando anche di stare attento all'introito di proteine, perché facendo attività fisica le proteine, che siano vegetali o animali, servono. Ci vogliono, quindi vi ha dato un aiutone il dottor Ongaro per il nostro quizzettone. Dottoressa Reverso, una raccomandazione o più di una raccomandazione a Gian prima di salutarlo? Beh, innanzitutto Gian, oltre a noi due come esperti, a me e al dottor Filippo Ongaro, lui ha anche una compagna che può aiutarlo nell'organizzazione dei suoi menù e della sua giornata. I menù proposti sono semplici, le ricette sono veramente molto semplici, e visto che lui deve comunque integrare con un pochino di più di cereali in chicchi, cereali in chicchi integrali, abbiamo pensato anche di inserire dell'insalata, visto che la stagione lo consente, e di portarsi magari in ufficio già al pranzo pronto. Gian, sei pronto allora? Ti lasciamo, ti seguiamo. Tra l'altro, a proposito, il dottor Filippo Ongaro, lo sapete che una volta alla settimana i nostri esperti si mettono a vostra disposizione, dei nostri partecipanti ma anche di tutti voi, è disponibile sul blog di Mangia con me domani dalle 15 alle 16, non fatevi scappare questa occasione. Grazie Gian, e in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a voi, seguirò i vostri consigli e vi terrò aggiornati. Ciao, ciao, grazie. Scrivici. Davide, ritornato con noi. Ciao Davide, il nostro primo concorrente di Mangia con me. Ciao, buongiorno a tutti. Come ti senti? Diciamo in forma, in forma. Bene, allora senti Davide, in 2 settimane di allenamento hai capito che? Ho capito prima di tutto che fare una dieta è soprattutto una questione psicologica. E quindi ce la stai facendo? Sì, è scattato il click. Che cosa ti ha piacevolmente sorpreso? La scoperta di nuovi alimenti che prima ignoravo, come ad esempio il kamut e il tofu, che mi piacciono molto, e anche in generale tutto il mondo dei cibi integrali che avevo sottovalutato. Hai capito. Quali delle indicazioni invece del dottor Ongaro e della dottoressa Reverso hai deciso di non seguire, o hai provato e le hai accantonate, sono un po' in stand-by? Ho fatto dei piccoli strappi alla regola, magari nel fine settimana, una volta, come ho scritto sul blog, è capitata una festa di laurea, dai, quindi è stato certo difficile, che si... però diciamo che sto cercando di mantenermi nella via. Senti Davide, vogliamo invitare gli ascoltatori di Essere Benessere a fare il tifo per te, quindi a sostenerti anche sulle pagine del programma di Mangia con me. Vuoi lanciare un appello a loro? figace. Dai, venite a dare un'occhiata al blog, sappiate che se mi lasciate un incoraggiamento sarà molto gradito e sicuramente mi sarete di aiuto. Grazie a Davide, allora in bocca al lupo. Davide, intanto abbiamo chiamato anche Silvia, ha iniziato a seguire il programma Mangia con me del dottor Ongaro e della dottoressa Reverso la scorsa settimana. Silvia, ciao! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, vogliamo fare un breve bilancio tra le voci positive di questa settimana, cosa metti? I semini di lino. Ecco, sono andati forte. Sono andati fortissimo, ho sentito anche nelle puntate scorse, sono buoni, è vero, è una cosa piacevole da sgranocchiare, simpatica, ho diffuso anche in famiglia e presso gli amici. Questa nuova dottoressa Reverso con i suoi semini di lino ci ha conquistato. E tra quelle negative, Silvia, ce ne saranno, no? Tra quelle negative diciamo che non riesco ancora per il momento a seguire la dieta che mi ha indicato, però ho iniziato dalla colazione. Brava. La colazione con le fette biscottate integrali, sono appena uscita adesso da un negozio di alimenti naturali, ho comprato fette biscottate integrali di Kamut, cracker integrali di Kamut e anche sempre delle sfogliatine, così oltretutto con i semini di lino. Con i semini di lino. Buoni acquisti. Silvia, anche tu alimenta la tua tifoseria. La mia tifoseria, posso dire, mangiate con me. Mangiate con me, brava. Allora, dottor Ongaro, dottoressa Reverso, come vi sembrano? Beh, mi sembrano delle situazioni tipiche di un inizio di cambiamento. Davide ha avuto un pochino più tempo e l'ho sentito già più instradato. Silvia ha iniziato da poco, bisogna non farsi frenare, la difficoltà maggiore è vincere l'inerzia all'inizio, poi quando si riesce a prendere un certo ritmo diventa facile e anche divertente. Dottoressa Reverso, soddisfatta? Ha visto i suoi semi di lino, le fette biscottate integrali? Insomma, alla fine, lenta lenta, la dottoressa Reverso ci porta a fare un po' quello che vuole lei, Beh, vedo comunque della grazie, ma a me piace stimolare le persone a scoprire nuovi sapori, nuovi gusti, forse perché io sono curiosa e appassionata di cucina. Vedo della motivazione, vedo della curiosità, vedo anche dell'entusiasmo, della positività. Quindi, direi che siamo sulla buona strada, no? E dato che la curiosità come l'appetito vi è mangiando, andate sul nostro sito, troverete naturalmente i consigli della dottoressa Reverso e del dottor Ongaro, tante ricettine. Andrea ancora con noi, mi segnalano Antonella da Monza, riusciamo, abbiamo un minuto. Antonella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Telefonavo per dare la risposta. Del quizzettone, dai, allora, cosa si deve mangiare prima di allenarsi? Allora, cereali integrali, frutta secca, noci, nocciole, mandorle e proteine vegetali o animali. Dottor Ongaro, Antonella ce l'ha fatta. Grazie Antonella, allora manderemo a casa di Antonella, direttamente dagli Alti e Bassi, il loro ultimo CD che si intitola Io ho in mente te. Grazie ad Antonella da Monza, al dottor Ongaro, alla dottoressa Reverso, noi ci sentiamo come sempre domani, mi raccomando, compilate il questionario, andate sul sito e domani io vi aspetto qui dopo il GR delle 11. Essere e benessere.